Radio Plaza es la hostia. ¡Ale con ello! Eccoci, siamo arrivati, siamo pronti, prontissimi. Oggi 13 aprile 2025 arriva Radio Plaza di nuovo qui in piazza, Municipio a Marigliano, e di nuovo su collettivoutopia.noblogs.org. Radio Plaza ritorna in piazza perché sta arrivando il primo maggio, occhio all'ingranaggio, edizione 2025. Radio Plaza ritorna in piazza perché oggi si parte la raccolta fondi popolari per la settima ottava, più o meno, per una nuova grande edizione di primo maggio, occhio all'ingranaggio 2025. Estemporanea Radio Plaza ultrafonica. Saluti a tutta la piazza piena di sole al momento. Ho alzato i toni, come al solito, ogni volta è così. Sì, allora, siamo qui per prepararci al primo maggio che sta in arrivo. Oggi 13 aprile, mi raccomando, avvicinatevi al banchetto del collettivo Utopia per lasciare la vostra questua, si dice così, ma questa è noi che la facciamo o loro che la danno? Ma è uno scambio reciproco, è tutto uno scambio di emozioni qua, e anche voi fate un'offerta e noi facciamo il primo maggio. Facciamo il primo maggio anche quest'anno a Marigliano, quest'anno il primo maggio occhio all'ingranaggio. Questa puntata oggi del 13 aprile 2025 è la prima di promozione della nuova edizione del primo maggio, e ce ne sarà un'altra il 23 di aprile e poi arriva il primo maggio, e intanto parte questa nuova puntata di Radio Plaza. E anche il 27 aprile saremo qua in piazza ancora una volta, proprio per... No, ma si sbaglia, altrimenti non si impara. Era il 27, non il 23. Il 23 succede altro, poi vi raccontiamo. Il 23 ci sarà una serata di autofinanziamento a Labside di Somma Vesuviana. L'ospite speciale... Dagon Lorai, ospite di Radio Plaza del Collettivo Utopia. Collettivo Utopia che organizza la nuova edizione di primo maggio, occhio all'ingranaggio. Nessuna sorpresa con Radio Plaza. Ma è già una sorpresa questa già è una sorpresa. Vabbè, vogliamo un attimo dire che abbiamo cominciato questa nuova puntata con una presigla sempre interessante. Erano le mani che suonavano sul pianoforte, le mani erano quelle di Stefano Bollani, che ha suonato Napoli's Blues dall'album Napoli Trip del 2016. E poi la sigla, e poi c'è stata una mega sigla, I Love Paris, di Pewitant, dall'album che porta il nome per omaggiare Cole Porter e alla Dixie. Abbiamo parlato del collettivo Utopia. Non ne abbiamo ancora parlato, vai. Radio Plaza, Radio Plaza è promossa in questo frangente storico dal collettivo Utopia. Fantapolitica applicata al presente immediato. Collettivo Utopia Marigliano, una ventina d'anni di attività fantapolitiche, appunto. Quindi utopistica immaginazione di una nuova realtà. E basta così. Quindi Radio Plaza siamo noi, c'è anche il collettivo Utopia. Andiamo avanti? Andiamo con la musica. E poi vi raccontiamo cosa sarà questa nuova puntata di Radio Plaza. Lo ricordiamo, stiamo promuovendo la raccolta fondi popolare per Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio. E partiamo con... In questi giorni è scomparso Roberto De Simone. Chi fa la sbrava? Facci? Falla tu. Allora, faccio io come da programma. Va bene. Ma noi ci sprogrammiamo ogni volta, quindi va sempre, bene, sempre, sì, sprogrammiamoci, vai. Lasciandoci... Camminiamo insieme, almeno. Vai, siamo insieme. Che qua c'è gente sempre che fa dei salti in avanti, da solo, diciamo così. Vabbè, qui... allora, Roberto De Simone, il grande maestro napoletano, compositore, ci ha lasciato in questi giorni, quindi noi facciamo una... dedica, diciamo così, una dedica bella arzilla, e ci andiamo a sentire Madrigali dall'album La gatta Cenerentola del 1998. E La gatta Cenerentola è questa favola e musica in tre atti di Roberto De Simone, realizzata per la prima volta nel 1975 con la nuova compagnia di canto popolare. La grande protagonista della gatta Cenerentola è la città di Napoli, città figliastra, vittima del potere di una matrigna perversa e di occupatori stranieri, ma che alla fine cadranno tutti ai suoi piedi. Il lavoro teatrale si ispira alla fiaba di Cenerentola, calata magistralmente nell'ambiente e nella cultura partenopea, mescolando varie versioni, scritti orali della stessa fiaba. Da un punto di vista musicale, l'opera emanazione diretta del lavoro di ricerca operato dall'autore e dal suo gruppo, come diceva Carmine, la nuova compagnia di canto popolare, sulla tradizione orale del Sud Italia, è un sapiente miscuglio di musica popolare, villanelle, moresche, tamburriate e di musica colta. Ascoltiamo. Quelle est la radio che tu écoutes? Radio Plaza, évidemment. Che se magnai la zita prima sera. Che se magnai la zita prima sera. Che se magnai la zita prima sera. Prima sera. La prima sera cance se cuccai. La prima sera cance se cuccai. La prima sera cance se cuccai. Ma sera da se buca e sa va. seconda sera. Se magnai la tita, se magnai la tita, se magnai la tita, se magnai la tita, quanna ricetta, quanna ricetta. Chi sarà questa bella furtana, principessa gran puttana? Che sarà, che sarà, che sarà questa schiattiglia, crepa un corpo, mamma e figlia? Chi sarà, chi sarà, chi sarà, chi sarà, chi sarà, chi sarà, che sarà questa schiattiglia, crepa un corpo, mamma e figlia? Principessa gran puttana, chi sarà, chi sarà? Grande inizio della nuova puntata di Radio Plaza. Radio Plaza stamattina in piazza, il collettivo Utopia comincia la raccolta fondi popolare per la nuova edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. Saremo stamattina in piazza, saremo il 23 aprile a Somma Vesuviana all'Upside e ritorneremo il 27 domenica di nuovo in piazza per poi rivederci tutte e tutti, tutto quanto, come ci piace, come piace dire a noi, il primo maggio. Primo maggio, occhio all'ingranaggio. C'è anche tutto, tutto e tutti. Tutto e tutto è bellissimo. Ma il napoletano ci aiuta alla grande in questa cosa. Vabbè, oggi volevamo sotto, con questa, con questi sottofondi, questa volta te li sei un po' dimenticati. I sottofondi sono fuori di testa. Questo perché è The Faxet con il sottofondo Matar e vogliamo fare un esperimento, vogliamo provare a raccontare dei quadri, raccontiamo dei quadri alla radio, così si apre l'immaginazione e si parla di arte in modi diversi. Naturalmente sono quadri che abbiamo scelto sul tema per dare un'idea di quella che è la critica o la riflessione sul tema del lavoro e sulle questioni sociali. Sì, il primo quadro che andiamo a raccontare per quelli che sono in ascolto a casa in streaming su collettivoutopia.noblogs.org, prendete appunti. Allora, l'autore è Stan Hopes Forbes e il quadro si intitola Le ragazze delle munizioni, del 1918, olio su tela, centimetri 103x127, esposto al Museo della Scienza di Londra. Allora, il quadro si presenta così: un numeroso gruppo di donne in un'acciaieria di Kilnhurst impiegate nella realizzazione di munizioni prodotte per il rifornimento dell'esercito impegnato nella Prima Guerra Mondiale, rappresentato seguendo perfettamente gli ideali del realismo, corrente a cui Forbes apparteneva. Ebbene, tutte queste donne sono ritratte mentre svolgono qualche attività, cioè mentre lavorano, nessuna di loro è mostrata a riposo. emerge un grande senso del dovere, quindi, ma anche ovviamente la grande stanchezza e fatica che tutte provano. Donne operaie che producono proiettili da 4,5 pollici presso la Kilnarst Steelworks di John Baker & Company Ltd. a Rotherham in Inghilterra. Allora, si nota subito che tutte le figure, tranne le due in primo piano, sono indistinte, uguali tra loro e di conseguenza evocano un grande senso di anonimato e di perdita nell'oblio massificante della fabbrica. Ricordiamo, siamo nel 1918, quindi la rivoluzione industriale è appena iniziata. Quindi nel complesso l'opera infonde compassione e rispetto per ciò che le donne erano costrette a fare in quel periodo. Allora, guardiamo ancora il quadro. Le due donne che si vedono davanti sono le uniche ben definite nell'intera opera. Notiamo subito lo sguardo spento della donna in giallo, ma soprattutto il modo in cui sono vestite le due operaie. Il cappello dell'una richiama il vestito dell'altra e viceversa. E forse qui l'autore vuole rappresentare il senso di unione tra queste lavoratrici, intenzione che nel resto del dipinto invece è impercettibile. Quindi Stan Hope Forbes, Le ragazze delle munizioni del 1918, lo trovate a Londra nel Museo della Scienza. Io invece vado un po' più avanti nel tempo, siamo nel 1953 e vi racconto Zolfara di Renato Guttuso. Olio su tela, centimetri 201 per 311. Questo invece è esposto al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi a Cortina d'Ampezzo. In questa grande tela Guttuso è materico, descrittivo, in una rappresentazione storico-culturale della sua terra, con il suo sentito impegno sociale, testimonianza della vicinanza al popolo, tematica ricorrente, come dicevo, nelle opere e nel suo impegno politico. E quindi andiamo a descrivere la scena del quadro. Siamo all'interno di una scura miniera di zolfo, uomini cadaverici, praticamente nudi, verdognoli, lavorano operosi e muti, piegati dalla fatica. L'unico a conservare un carnato ancora roseo è un bambino non ancora contaminato dalla fatica e dall'aria malsana della miniera, che aspetta che il suo sacco sia riempito di zolfo dagli altri. Un budello oscuro che Gattuso, con un gioco di luci abbaglianti che esalta la muscolatura dei minatori, le espressioni dure, la fatica fisica, il disagio ma anche la ferrea volontà, trasforma in una festa psichedelica in cui la pennellata è decisa, drammatica, emotiva, con un'esplosione accesa di verdi, rossi, terra, giallo, che sembra voler trasferire il sole della Sicilia fin là sotto, sottoterra, nella miniera, a ristorare in quell'attimo quei poveri schiavi. Irregolare, anticommerciale, inusuale, Radio Plaza, siamo in piazza qui per promuovere l'organizzazione del primo maggio, Occhio all'Ingranaggio 2025, sesta barra nona edizione di questa festa del primo maggio, che si terrà qui a Marigliano se non ci sono intoppi istituzionali e politici, soprattutto perché qua siamo in campagna elettorale. Andiamo davanti. Avvertenze per la somministrazione. Stiamo raccontando dei quadri in radio, sperimentale ovviamente, e andiamo avanti. Abbiamo, che cosa abbiamo qua? Allora, Angelo Morbelli, terzo quadro in lista. Angelo Morbelli per 80 centesimi è il titolo dell'album, del quadro. Vabbè, i lapsus. Sono degli anni 70, quindi c'ho la musica. Esattamente. C'ho la musica in testa. Allora, quindi Angelo Morbelli, torniamo seri per cortesia. Angelo Morbelli per 80 centesimi degli anni, è stato composto negli anni tra il 1895 e il 1897, Olio su tela, centimetri 67 per 121, e lo possiamo ritrovare, possiamo andare a guardarlo alla Fondazione Museo Francesco Borgogna di Vercelli. E l'opera, che è diventata quasi un simbolo della pittura italiana di fine Ottocento e in particolare di quel filone animato da intenti di denuncia sociale, ci porta in una risaia, siamo a Vercelli, nella pianura tra Casale Monferrato e Vercelli, appunto, dove non è raro imbattersi in questo tipo di macchie verdeggianti allineate. Le protagoniste di questo dipinto sono le mondine. Le mondine, le donne che lavorano nelle coltivazioni di riso con l'acqua fino alle ginocchia e la schiena curva per eliminare le erbacce infestanti che crescevano nelle risaie. Da questa attività deriva il nome. Le mondine infatti erano queste lavoratrici che mondavano, ovvero pulivano il campo su cui sarebbe cresciuto il riso. Un lavoro durissimo che costringeva le donne che lo svolgevano a stare ore piegate nell'acqua. Era praticato da donne di bassa estrazione sociale che giungevano nelle risaie di Vercelli e delle vicine Novara e Pavia da gran parte dell'Italia del Nord. Quindi siamo nell'Ottocento, fine Ottocento, e sono gli anni dei primi scioperi in risaia. Si chiedevano le 8 ore lavorative e salari più equi, ottenuti poi a Vercelli nel 1906, quindi qualche anno dopo. L'intenzione critica del dipinto emerge non solo nel titolo per 80 centesimi, appunto, che si riferisce esplicitamente alla paga ridotta ottenuta dalle lavoratrici in risaia, ma soprattutto nella scelta compositiva del soggetto, cioè il punto di vista. Guardiamo il quadro. Le mondine ritratte di schiena, disposte su due file che procedono arretrando, intente nel loro lavoro, con le gambe immerse nell'acqua. Facciamo attenzione, il taglio fotografico della scena esclude la raffigurazione del cielo, che appare solo riflesso sull'acqua. È proprio il punto di vista di quelle donne che lavorano. Concludere questo primo intervento che abbiamo voluto dedicare al lavoro raffigurato nei quadri, io ritorno al 1913-1914 e vi racconto Lavoratori di ritorno verso casa di Edward Munch. Olio su tela, centimetri 227x201. Attualmente lo si può vedere al Munch Museum di Oslo. Il quadro di Munch raffigura i lavoratori di una fabbrica che tornano a casa dopo una giornata di lavoro. Si vede una folla che cammina uscente dal quadro, quasi a travolgere l'osservatore. In una prospettiva leggermente distorta si riescono a definire solo 3 volti in primo piano e le loro espressioni drammatiche, evidenziate da spesse linee, sono la parte più significativa di tutta la rappresentazione. Camminano tutti allo stesso modo, lo sguardo è vuoto, tutti verso la stessa direzione, specchio della ripetitività alienante dei loro giorni. L'inquadratura è frontale, a campo lungo, quasi cinematografica, evidenzia il movimento dei personaggi verso il primo piano. Le linee di contorno sono marcate, è Munch, le pennellate sono brevi, è Munch, il colore è irreale, è Munch. Munch obbliga l'osservatore a incontrare le facce e gli sguardi di ognuno di loro. I lavoratori di ritorno verso casa è la rappresentazione della rivoluzione industriale ormai consolidata nella storia e nella società. Una classe operaia angosciata da una società che tende ad omologare le esistenze in un sistema di massa. Odio gli indifferenti, urgono gli irriverenti. Radio Plaza. Sometimes I look here while you're sleeping on the sofa, asking to myself why every man needs a woman, a new morning brings new things to discover, over and over, and when a door of all the rain, just one thought complains my day, it's a grin on your mouth when you say my name. I'm proud, my son that chased the cloud. You're my candle in the darkness, got no doubt. Woman, I me say, woman, oh, creature blessed by se porto luce, porto ombre, nell'ombra mi nascondo, non mostrerò i miei mostri fino in fondo, l'animo fragile, i miei se, se solo fossi me, per tutte quelle volte che ho sfiorato il bordo e non mi scordo e non mi sporgo se profondo, ci vedo bene al buio se tu spegni il mondo e conto i passi per venire fino a te, prendi la luce, il sole sorge e yes, woman. E bentornati, ah, che situazione intima che c'è adesso, cambiata l'atmosfera, il traffico si è fermato. Allora, siamo qua in diretta dalla piazza Municipio di Marigliano in provincia di Napoli, siamo in Italia ed è l'anno 2025. E perché siamo in piazza? Lo dirà Anna dopo. Abbiamo ascoltato, avete riconosciuto i Train to Roots, no? Immagino di sì. O avete riconosciuto Levante? Avete riconosciuto Levante, lo sapevo. Vabbè, allora erano Train to Roots e Levante. Il brano era Woman dall'album Home del 2015. E in questo momento stiamo ascoltando un sottofondo rock blues. Amplificato da un dispositivo nuovo che stiamo facendo un esperimento. Prove Radio Plaza. Tutto cambia. Allora sì, Carmine è un po' distratto. Perché quindi siamo in piazza? Vi ricordo sì, che sì, stamattina sì, sì, sì, il collettivo L'artista Utopia e Radio Plaza stamattina tutti in piazza perché comincia la raccolta fondi popolare per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della prossima edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. Siamo con il banchetto del collettivo Utopia, siamo online in streaming su collettivo Utopia. blogs.org e stiamo promuovendo la nuova edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. E lasciatecela una monetina, anche poi se volete anche banconote e addirittura anche cambiali finte pure, se volete non è un problema, però lasciateci qualcosa. Ebbene, bene, ora andiamo avanti con insomma, vi raccontiamo, continuiamo a raccontare quello che è successo l'anno scorso. Sì, mi sono un attimo distratta, non grazie Carmine. Allora, mi sono un attimo distratta perché vogliamo raccontare cosa è successo l'anno scorso nell'edizione precedente 2024, Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio 2024. Sì. Anche come quest'anno è stata una giornata intensa, partita dalla mattina presto e poi subito alle 11 il gruppo di lettura Operaie con mio nonno e Michelangelo, libreria di Pomigliano d'Arco nata nel 2016, libreria antifascista. Mio nonno e Michelangelo è un'oasi dove farsi accarezzare dalle parole di un buon libro. E se vi sembra una semplice libreria, beh, lo è, ma è anche molto molto di più. Impugna il libro, è un'arma, tocca a te prendere la direzione. Compagno, non temere di chiedere, non far credito a nulla, controlla tu stesso. Quello che non sai di tua scienza in realtà non lo sai. Verifica il conto, tocca a te pagarlo. Poni il dito su ogni voce, chiedi ogni cosa, tocca a te prendere la direzione. Sì, quindi abbiamo iniziato con questo gruppo di lettura con mio nonno e Michelangelo, Poi alle 12 c'è stata l'incursione di una nostra radio amica che volevo già salutare anche in questa puntata, perché probabilmente ritrasmetterà questa puntata che stiamo facendo oggi e tutte le altre che faremo nei prossimi giorni e settimane, fino a quando poi arriveremo al primo maggio. I piccoli problemi tecnici lasciamo stare, andiamo avanti. Sì, allora, Radio Neanderthal, che potete trovare anche online, Radio Neanderthal, che ha presentato questa sua puntata radio critica al lavoro digitale. E chi è Radio Neanderthal? È un laboratorio in cui si sperimenta un altro modo di comunicare, dove il pensiero comincia a risedimentare secondo i suoi nostri tempi e non quelli imposti dalla società contemporanea che incatenano le nostre esistenze. Le ideologie egemoni di in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico e le sue radici affondano in un retroterra consolidato. E come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno. E poi il pranzo contadino, c'era cibo, abbiamo mangiato, bevuto insieme, abbiamo passato, chiacchierato insieme a Genuino Clandestino Campania, il Giardino del Sole, Marmellateria Vesuviana, e abbiamo anche un po' bevuto insieme a Caos. Te lo ricordi, Caos? Tutta roba naturale, chiaramente. Andiamo avanti con alle 16 ci sono stati un'altra radio amica, diciamo un altro programma radio, veramente questo qua, Radici di Gramigna, che ha affrontato il tema lavoro nei campi e lavoro femminile. Chi sono Radici di Gramigna? Radici di Gramigna è un periodico radiofonico nomade su quattro quarti, su Ritmo Terra e Libertà, storie di vita e resistenza contadina, antidoti magici al virus del potere e musica viva. Gramigna Hi-Fi vuole essere il sound dei mercati contadini, delle raccolte collettive, il muro di casse che celebra l'invasione e il saccheggio della metropoli, le occupazioni delle terre, l'urlare in faccia al mondo basta allo sfruttamento nei barra dei campi. Sugli animali, cioè sulle api, le galline e la ciucciarella. Ci ha aiutato a costruire questo mini sound perché si è incuriosito. Io volevo fare una domanda, no? Perché al finale oggi è il giorno del lavoro. E quindi capirai se sarà un inverno freddo. Ma quindi a finale voi due, ma che lavoro fate? E poi il pomeriggio, ritorna Radio Plaza, vabbè, immancabile, ritorna Radio Plaza nel 2024, nell'edizione dell'anno scorso Radio Plaza ha incontrato i traduttori del libro Cambiate lavoro per favore, lettere agli umani che robotizzano il mondo di Celia Edoard, edizione Malamente. Ascoltiamo un estratto. Bisognerebbe trovare il comunicato stampa del collettivo Utopia per questa quinta edizione del primo maggio, occhio all'ingranaggio. Qui a Marigliano. Nel libro si parla nello specifico di macchine e veicoli a guida autonoma. I droni sono stati sviluppati come armi da guerra, così come qualunque. Moltissime tecnologie, ma. Se hai rettitudine di giudizio, vedrai subito che nella società attuale la scienza non è che un oggetto di lusso. E quindi questo era l'estratto della puntata Radio Plaza del primo maggio 2024, in faccia a tutti quelli che non ci credevano. Il primo maggio si farà nel 2024 come si è fatto nel 2020. E c'è gente che disse questa è l'ultima volta che lo fanno. Sì, non c'è dubbio, anche quest'anno proporremo 1 maggio 2025, tutti quelli che passano in piazza, se si vogliono fermare al banchetto del collettivo Utopia per la raccolta fondi popolare, perché ricordiamo che 1 maggio, occhio all'ingranaggio, promosso dal collettivo Utopia, non ha sponsor commerciali per scelta politica e non accede e non li chiede fondi statali per scelta ideologica, e quindi raccolta fondi popolare, la famosa questo che si faceva negli anni 60, tutti partecipano, tutti sono dentro, 1 maggio è di tutte noi. Che? Mi sono perso? Ah, andiamo avanti, sì. Stavamo raccontando quindi che cosa è successo l'anno scorso in Piazza Roma, qui a Marigliano, che sarebbe dietro all'ex l'ex centro polifunzionale, che era un ex chalet e poi... ok, che cosa è successo alle 18.30? Lo dico io, non lo dico io, no, lo voglio dire io. Sì, c'è stato uno spettacolo teatrale dal titolo Il Muratore, che è stato un riadattamento da Il Sogno del Muratore di Stefano Benni, a cura di Itaca Colonia Creativa, che di Pomigliano d'Arco. Loro si presentano così: occuparci di arte e cultura, recitare, danzare, suonare, scrivere, proporre eventi e spettacoli. Una casa per la creatività, un luogo dove esprimersi, crescere e imparare. Questa è Itaca. Stiamo raccontando cosa è successo l'anno scorso all'edizione del 2024 di 1 maggio, occhio all'ingranaggio, perché non stamattina saremo martellanti, perché stamattina parte la raccolta fondi popolare per il 1 maggio, occhio all'ingranaggio 2025, organizzato dal collettivo Utopia, autoprodotto, autofinanziato, autonomo, indipendente. E che si realizza ogni anno con la realizzazione, con la partecipazione di tutto quanto. E quindi la parte finale della giornata poi è il concerto, lo sarà quest'anno e lo è stato l'anno scorso. L'anno scorso sul palco del collettivo Utopia lì cioè, ci sono stati Mimmo Taki, Sun, S.W.N., The Little Devils, L'Amaro e qualche fuori programma con incursioni sul palco di tanta bella gente che suona insieme. A proposito, vogliamo ringraziare quest'anno, ma l'abbiamo fatto già l'anno scorso, Claudio, Pasquale, Paolo, Peppone, Carmine, che sono saliti sul palco per suonare insieme. E ringraziamo anche quelli che ci fanno delle richieste, perché diciamo... sembra impossibile, ma anche Radio Plaza riceve delle richieste di musica. Ci hanno chiesto di programmare oggi, in questa puntata speciale di per la raccolta fondi del 1 maggio, Dove l'ho messa di Giorgio Gaber, estratta dall'album Anche per oggi non si vola, del 1974. Adesso voi magari vi aspettereste che trovassero i colpevoli, eh? Avete visto troppi film gialli. Anch'io l'altra sera esco dal cinema. Dov'è la macchina? Ah, già l'ho messa lì. Chiavi, brum, parte subito. Perfetta. Arrivo, via Londonio. Non c'è più la casa. Ho sbagliato strada, fammi vedere. 24, 26. Maledizione, manca il 28. C'è più la casa. Ho perso la casa. Dove l'ho messo? Vediamo un po'. Sono andato al cinema. Un bidone, tra l'altro. In macchina no. Non posso averla persa, la lascio sempre lì. Dove l'ho messo? Io sono sempre stato un po' disordinato, ma la mia casa non è mica un orecchino. A questo punto sono molto preoccupato. Un uomo senza casa è un po' un casino. Me lo dice sempre la mia mamma che sono disordinato. Ha ragione. Ha ragione la mamma. A proposito, la mamma. Dove l'ho messo? Ho perso anche la mamma. possibile. Devo fare la denuncia. Sì, tanto i carabinieri e le mamme non le trovano mai. Non era neanche assicurata. Però la chiudo sempre, eh. Peccato. Ma non tanto per il valore, è che era un ricordo. E poi la mamma non è mica un accendino che lasci al bar e te lo fregano gli amici. Io non vorrei che lei giocasse a nascondino. Un uomo senza mamma è un po' de amicis. Bisogna che la ritrovi, la mia mamma, e anche la mia casa, tutto. E se non loro qualcosa di solido, qualcosa che gli assomigli, qualcosa per sentirti bene, per sentirti giusto, per sentirti sicuro in questa nostra bella terra, in questa nostra bella Italia. Italia. Dove l'ho messo? Ho perso anche l'Italia, possibile. L'Italia di Mazzini, di Cavour, dei nostri martiri, degli invalidi senza gambe, senza braccia, l'inno di Mameli, il tricolore che sventola. È duro rendersi conto che si sia dissolta così al vento. Pum, come una scoreggia. Si capiva che era una situazione che da un momento all'altro... Voglio dire, in un certo senso ce l'aspettavamo, però al momento ti fa sempre un certo effetto. Per molta gente è stato un colpo troppo duro. Siamo rimasti proprio orfani di tutto. Un uomo senza Italia, un uomo senza casa, senza mamma, senza famiglia, senza storia, senza ideologia, senza capi, senza esercito, senza chiesa, senza clero. Un uomo senza niente è più leggero. El pueblo unido. Escucha Radio Plaza. Escucha Radio Plaza. Sì, questa è Radio Plaza, questo è il collettivo Utopia. Questa è la giornata, la prima giornata di promozione della raccolta fondi popolare per l'organizzazione del primo maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. Sì, siamo live in Piazza Municipio qui a Marigliano, in provincia di Napoli, Stato Italia, e siamo in diretta streaming in tutto il mondo su collettivoutopia.noblogs.org. E questa è solo la prima puntata di promozione della raccolta fondi, perché poi ce ne sarà un'altra. Ritorneremo in piazza anche il 27 maggio con qualche sorpresa, speriamo. E 27 poi, maggio? Il 27 aprile, sto un po' fuori, ma perché il tempo è relativo, noi ce lo siamo inventati noi, maledetti. E niente, quindi ritorneremo in piazza il 27 aprile. Con sorprese, voci, vediamo succede. Intanto siamo oggi qua in piazza, oggi è 13 aprile 2025, so anche l'anno, e vi invitiamo anche a tenere gli occhi e le orecchie aperte, perché anche il 23 aprile ci sarà una serata di promozione all'Upside di Somma Vesuviana. Sì, perché il primo maggio è una festa popolare, e quindi il popolo contribuisce, diciamo, alle spese minime, anche poco, si tratta di poche centinaia di euro, niente di che, voglio dire. E quindi raccolta fondi popolare in piazza oggi e per tutto il periodo fino al primo maggio, anche dopo, il primo maggio. Se volete anche dopo non è un problema, va bene così. E quindi questa puntata, insomma, in preparazione del primo maggio, giornata internazionale dedicata al lavoro, ma chi sta parlando di lavoro? Noi! E chi siamo noi per parlare di lavoro? voci molto più autorevoli lo hanno fatto attraverso mezzi diversi: l'arte, come abbiamo visto prima, il teatro, il cinema e naturalmente la musica. E a proposito di musica, come non citare il maestro Franco Battiato. Franco Battiato nel 1983 pubblica un brano tra i meno noti della sua produzione, Gente in progresso, nell'album Orizzonti perduti. In questo disco Battiato fa un uso esclusivo dell'elettronica e del computer per la riproduzione dei suoni, eliminando totalmente gli strumenti acustici. È un pazzo, sì, un pazzo. Però erano gli anni 80, quindi un progressista. Gente in progresso è, secondo me, naturalmente, ma anche secondo te, secondo noi, uno dei migliori brani di questo disco e del Battiato Electropop anni 80, ma paradossalmente anche uno dei più sottovalutati. Non pubblicato come singolo e quindi assente nelle radio, non trova spazio nemmeno nei concerti. Questioni di gusti e di scelte. Buon ascolto. Ascoltiamo. Un altro inverno che porterà la neve, un'altra primavera, e tu che fai di sabato in questa città dove c'è gente che lavora per avere un mese all'anno di ferie. Poi nel bene, nel male, è una questione sociale. Coatti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Città dove c'è gente che lavora nelle fabbriche, in negozi, dietro a scrivanie. Poi nel bene, nel male, è una questione sociale. Va bene, sullo sfondo dello sfumacchio del brano di Franco Battiato che abbiamo sentito qua adesso in questo momento era Gente in progresso, l'album, segnatevelo, Orizzonti perduti, uno dei più belli vecchi ricordi di quando avevo 7-8 anni. Ok. Questa malinconia del passato. No, siamo ad oggi, siamo al 2025, stiamo promuovendo la prossima edizione di Primo Maggio, occhio all'ingranaggio. Non, nessuna malinconia mi sotterrerà, questo è poco ma sicuro. Allora, siamo in questa fase della puntata di Radio Plaza oggi, durante la raccolta fondi popolare spontanea. Mi raccomando, date qualche spicciolo. Spontanea, appunto, date qualche spicciolo al banchetto. Spontaneamente. Vabbè, al banchetto ci sono dei dolci molto buoni e particolari perché non li trovate nelle pasticcerie. I dolci sono vegani. Assaggiateli e lasciate un euro ogni pezzo. Senza nessun pregiudizio. Senza nessun pregiudizio per le pasticcerie napoletane. Come fai a tenere la testa? Vabbè. Sì, siamo in questa fase della puntata di Radio Plaza in cui stiamo parlando di lavoro, anzi di come l'arte, teatro, cinema e musica hanno parlato, hanno affrontato il tema lavoro. Quello era Franco Battiato, adesso passiamo al cinema. E quando un film racconta lavoro è già un'impresa. Questa non l'avevo, questa l'ho capita oggi. Questa battuta. Stiamo lavorando a questa puntata da una settimana e oggi ho capito questa battuta. Bellissima. Non mi devo distrarre. Non la ripetiamo, non andiamo distrarre. Avanti. Vabbè, diamo alcuni titoli di film che hanno affrontato il tema lavoro. Qua anche di più, quanti ne vuoi? E li vogliamo dare? E li devi dare tu. E li voglio dare io e li do io. Tu li hai dati. Vabbè, secondo... vabbè, Carmine, siamo distratti. No, non siamo distratti per niente. Allora, il Bella. Capo perfetto, Spagna 2021, della regia di Fernando León de Aranoa. Sì. Tutta la vita davanti, Italia 2008, regia di Paolo Virzì. Sì. La nostra vita, Italia 2010, regia di Daniele Lucchetti. Smetto quando voglio, Italia 2014, regia di Sidney Sibilia. E We Want Sex, UK, United Kingdom, 2010, regia di Nicole Cole. Sì, e poi vabbè, andiamo nello specifico, ci sarebbe anche Sorry We Missed You. Con la regia di Ken Loach, grande film del 2019, che diciamo, cosa si mette in moto? Facciamoci una domanda: cosa si mette in moto quando tutti contenti con un click ordiniamo pranzi, vestiti, frigoriferi, cibo per gatti che arriveranno comodamente e puntuali a casa nostra? Sorry, we missed you, ovvero la vita infernale di chi fa consegne a domicilio. Dunque, il film di Ken Loach descrive le difficoltà di una famiglia in cui la moglie fa la badante e il marito, dopo aver perso il lavoro, inizia un'attività autonoma con un furgone di consegne. Ebbene, nel film si mostra tutta la durezza di questo settore lavorativo, dove i lavoratori sono stritolati da tempi strettissimi, stressati da clienti viziati e cinici, esigenze familiari, problemi di salute, con il pericolo di essere rapinati ogni giorno. Io ho fatto tutto. Il muratore, l'idraulico. Questi siete voi? Tutto. Vorrei lavorare in proprio ora, essere il mio capo. Vediamo di mettere subito in chiaro un po' di cose, va bene? Ciao, Rosie. Sveglia! Papà si infuria se non vai a scuola. Se non si sposta, io le faccio la multa. No, Rosie. Ci mancava pure l'ascensore. Tu non lavori per noi, lavori con noi. Ho un contratto a zero ore, mi pagano a visita. Vai, scansiona! Fatto! Ah, sì! Seguono ogni pacco, te l'ho detto. Anche se lo metti nella rimessa in giardino, sanno dov'è. C'è un cane enorme lì dentro, mi sa che mi ha staccato un pezzo di culo. Questo decide chi vive e chi muore. Lo ritira per il signor Campbell? No, meglio di no. Mi pagano solo se consegno. Sei andato sui binari, sui tetti. Altrimenti farai la fine di... La fine tua? La fine di... Non pensavo fosse così difficile. Sono altre 100 sterline e una sanzione. È la mia serata con la famiglia, quindi no, non lo faccio. E ascoltami bene, nessuno tocca la mia famiglia. È stato bello oggi. Padrone del tuo destino, te la senti? Sì. Vindaloo, devi essere un uomo vero per mangiare questa roba. Sì. Porca vacca. E vai, uomo vero. E dopo l'arte, i quadri, dopo la musica, dopo il cinema, arriva il teatro in radio, che puntata sperimentale. Comunque il pubblico da casa sa, apprezza. Apprezza, sì, ci dicono cinema in radio, adoro, così ci hanno scritto. Vabbè, e detta questa, vi presentiamo, vi insomma raccontiamo un'opera teatrale dal titolo Solo quando lavoro sono felice, di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa. Una riflessione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi di lavoro con se stessi, sulla disperazione. Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? Quanto si riesce a resistere in una conversazione prima di informarsi sul mestiere svolto dalla persona con cui stiamo parlando? Questo è lo spettacolo giusto per chi ama il proprio capo, per chi lo odia, per chi è il capo di se stesso e si ama e si odia, per chi lavora troppo, per chi lavora troppo poco, per chi sta aggiornando il curriculum, per chi sta inventando lavori, per chi sta pensando di sbattere finalmente la porta e andarsene via. Generazione dopo generazione il lavoro è degenerato e i confini tra lavoro e vita sono sfumati. Quello che facciamo lo facciamo sempre, siamo operativi tutto il giorno, tutti i giorni. Dopo il precariato, la nuova frontiera tossica del lavoro corrisponde a uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere. Attenzione! Quella prima la sapevi, adesso? Ci sentiremo particolarmente gratificati se questo spettacolo vi stressasse ancora di più. Questo non è uno spettacolo, questo è più che altro un evento aziendale. Solo quando lavoro mi sento libero di rosicare. Ama quello che fai e non lavorerai mai. E voi vi chiederete, c'è una morale dietro a questa storia? Sì, c'è una morale. E c'è anche la canzone. Cioè non basta che lavoro, deve essere pure motivato. Dove sei stato tutta la mia vita? Quanti anni hai? Perché lavoriamo? Perché vendiamo il nostro corpo a un lavoro che non ci appartiene? Perché noleggiamo ora il nostro corpo per un lavoro che non ci piace? Diciamo tutti quanti no allo stipendio. Andiamo tutti quanti sull'isola Teschio, mangiamo banane. Diciamo no allo stipendio, sì alle banane. No allo stipendio, sì alle banane. No allo stipendio, sì alle banane. Adesso io faccio questa cosa performativa e mangio una banana per guardare tutti quanti. Chi so? This is the rhythm I like. Che succede? Era una battuta, ma qua i microfoni sono aperti. E vabbè, è andata così anche stavolta. Vabbè, comunque per i puristi, noi non siamo puristi, questa è Radio Plaza, mai purista, mai, mai, mai, mai. Vabbè, questi sono quei fuori onda che poi loro tagliano, gli altri quelli tagliano, invece qua è tutto live, è tutto in diretta, questo è Radio Plaza. Sì, bene, noi avevamo, questo era un pezzo che doveva finire in un altro modo, era un blocco che doveva finire in un altro modo, comunque abbiate pazienza, Radio Plaza! E quindi torniamo verso dove stavamo andando, Carmine, stavamo riportaci a casa. Sì, stavamo per ascoltare un brano, allora ci andiamo ad ascoltare un brano dei Asian Dub Foundation. Roba anni 90, questa malinconia degli anni 90 dovrebbe smetterla, dovrebbe finirla un giorno o l'altro. Va bene, allora gli Asian Dub Foundation si formano a Londra nel 1993 alla London's Farrington Community Music House. E Chandra Sonic, uno dei membri originali del gruppo Asian Dub Foundation, racconta in un'intervista rilasciata al Manifesto: dice questo: eravamo ragazzi di periferia, figli di immigrati asiatici con una gran voglia di gridare, siamo asiatici, siamo qui e siamo incazzati. Sicuramente eravamo quelli che esprimevano la rabbia con più vigore e l'unico gruppo, ripeto, l'unico con i testi più politicizzati, ribadisce. E seriamente intenzionati ad opporci al razzismo istituzionale e sociale. Siamo in Inghilterra negli anni 90. C'erano forti tensioni razziali in quel periodo, alimentati dalla frangia dell'estrema destra, e noi volevamo riaffermare: siamo nati qui e combattiamo per avere uguali opportunità e uguali diritti per tutti. Quanto è attuale questo tema, questo argomento? A breve questo argomento. Ne potremo parlare a brevissimo. A breve questo argomento. Siamo nati qui e combattiamo per avere uguali opportunità e uguali diritti per tutti. Niente è cambiato. A breve. E a brevissimo il brano, quindi, di Asian Dub Foundation, dall'album Rafi's Revenge del 1998. Il brano è Naxalite. Si dice così? Radio Plaza. This one's called Naxalite. Brothers and sisters of the soul, you now we are one in the visible and strong. They may try to break us, but they may not underestimate us. They know our memories are longer. We fed up as our sleeping villages. That's how they're pitching it. At least that's what they try to pretend. Check out our histories of which our revolution will be a prophecy that we will rise again. Plaza. Sostengo primo maggio occhio all'ingranaggio perché? Beh, perché non ci sarebbe stato altro posto al mondo nel quale sarebbe stato possibile dire in piazza che il lavoro nobilita l'uomo è di fatto una provocazione insopportabile. Aver veicolato queste parole cariche del suo osceno contenuto ha di fatto reso minoritario il diritto di ogni uomo a proclamarsi veramente libero. Certo, il messaggio deve essere breve, ma vorrei mi fosse concesso di argomentare a sostegno della mia affermazione che è stato proprio attraverso la legittimazione di quello slogan, il lavoro nobilita l'uomo, che noi tutti continueremo a identificare noi stessi con l'ingranaggio, a sostenere e invocare la centralità del nostro ruolo in un meccanismo che di fatto è stato pensato per soffocare e asservire lo spirito e l'intelligenza di ogni essere vivente a questa immensa macchinazione. Chiuso nella gabbia è il criceto che gioca con la sua girante. E tutti lì a chiedere di incoraggiare i suoi sforzi, a parlare di nobiltà del suo gesto, a manifestare perché siano sempre più efficacemente oleati i cuscinetti del suo giochino e nessuno a reclamare che si possa finalmente aprire la porta della gabbia e lasciare libero il criceto di scorrazzare a piacimento, di esplorare senza alcuna meta stabilita la foresta dalla quale chissà quando è stato sottratto, stabilendo tra l'altro che fosse cosa buona e giusta. Salute. Allora, perché sostengo il primo maggio occhio all'ingranaggio? Perché, come dice il manifesto del comontismo nel 1972, che il collettivo Utopia ha stampato dietro a una locandina di occhio all'ingranaggio del 2017, il lavoro non si festeggia ma si abolisce, perché la felicità per sua natura è fuori ed oltre la produzione di merci. E quindi non festeggiamo il lavoro, facciamo la festa al lavoro. Sì, è vero, vi seguo da tanti anni. Mi piace perché siete sinceri. Il vostro grido del primo maggio occhio all'ingranaggio è una scossa per tanti di noi. Grazie, grazie. Allora, questa è Radio Plaza, sono tornato un attimo, mi sono distratto perché ho visto Ugo Crepa che attraversava la piazza e quindi devo salutare sempre. Ok, stiamo preparando il primo maggio occhio all'ingranaggio 2025, edizione ancora una volta autonoma, autofinanziata, quindi c'è il banchetto del collettivo Utopia qui in piazza. Se qualcuno vuole contribuire a questa raccolta fondi popolare per un primo maggio autonomo, autofinanziato e senza scopo di lucro alcuno, visto che siamo in campagna elettorale, il primo maggio non porta voti a nessuno. E quindi andiamo avanti. Ora facciamo così, per quelli che ci seguono in streaming, ci colleghiamo in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Ci colleghiamo con la piazza di Marigliano, vediamo un attimo se funziona il collegamento e vediamo un po' quelli che si stanno intrattenendo in piazza, che cosa dicono. Pronto? Pronto? Oui, pronto? Pronto? Mi senti? Pronto? Sì, sì. Aspetta, vediamo. Senti? Io mi sento, sì. Tu ti senti? Ok, io mi sento. Era uno spettacolo, un pezzo teatrale di Proietti, quello del telefono. Quello che, sì, ok, mi senti? Io sì. Wow, si sente benissimo la tua voce. Allora andiamo avanti, sì. Vediamo un po' dalla piazza. Dici cosa succede in piazza. Siamo in piazza Marigliano, in diretta su Radio Plaza, su collettivoutopia.noblogs.org e stiamo facendo un'incursione in piazza e chiediamo a dei signori che sono qui fermi stamattina in piazza. Buongiorno a tutti. Ci sentiamo, se vi dico primo maggio. Io dico festa del lavoro. Festa del lavoro. E come lo festeggiamo il primo maggio? Praticando, perché noi siamo pensionati. Lei lavora il primo maggio e quindi questo primo maggio 2025? Sarà un primo maggio alla grande. Alla grande! E continuiamo, continuiamo a girare in piazza, ascoltiamo altre voci. Voi, aspetti, aspetti, è arrivato... Non festeggi che non ha mai lavorato. Allora, qua mi dicono, non so se si è sentito, che il primo maggio lo festeggia solo chi non ha mai lavorato. Ok, io raccolgo questo intervento e vado avanti. Grazie a tutti. Andiamo, andiamo, andiamo ancora verso... Ma posso andare ancora? Ho ancora tempo? Sì, sì, sì, il tempo ce l'hai, Anna. Puoi continuare. Posso dare fastidio a dei signori che stanno facendo un aperitivo? Non provocare e non accettare provocazioni. In diretta su Radio Plaza, sul collettivotopia.noblogs.org. Allora, io metto... Un attimo che non si sente bene. Eccola qua, sì. Siamo il primo maggio 2025. A cercare qualcosa di divertente da fare. E allora ve la do io una notizia. Primo maggio 2025, Marigliano, tutta la giornata ci sarà l'evento a Marigliano con il collettivo Topia. La voce Marigliano, facila! È bellissimo, Marigliano ovviamente. Ah, grande, questo me la segno. Grazie mille. Grazie. Vado ancora, ditemi voi i tempi. Vai, vai, Anna, vai, è divertentissimo. Vado ancora. Senti... Vado un po' più avanti mentre cerchiamo anche un po' d'acqua. Ma tu mi senti, però Anna? Io ti sento, ah, sì, tu mi senti, bravo, bravo, bravo. Vado avanti, disturbo non provocare. Tre persone che sono in maniera molto seria, chiacchierano. Non provocare. Mi disturbo per chiedere se vi dico prima cosa. Festa del lavoro. Festa del lavoro. Come lo festeggiamo quest'anno, il primo maggio 2015? Come non lo festeggiamo? Non lo festeggiamo, non lo festeggiamo. Qualcosa da dichiarare? Prima. Io lo trascorro in famiglia. Primo maggio in famiglia, grazie, grazie. Andiamo ancora avanti o torniamo indietro? No, no, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti a chiedere un bicchiere d'acqua e intanto mentre... aspetta, aspetta. Mentre chiediamo il bicchiere d'acqua, importuniamo qualcun altro, Importuniamo, eccolo, ci ha visto chi voglio importunare in diretta su Radio Plaza, su collettivotopia.noblogs.org. Se ti dico primo maggio, festa dei lavoratori. Festa dei lavoratori, come passiamo la festa dei lavoratori 2025? Vedremo. Allora io ti do un consiglio: primo maggio a Marigliano, tutta la giornata ci sarà un evento. Primo maggio, occhio all'ingranaggio 2025. Ti aspettiamo. Ok. Buona giornata, grazie. Io va bene, Anna, va bene così. Va bene vi così. Saluto, vi saluto dalla piazza. Prendiamo un bicchiere d'acqua e torniamo. Ok. Sentiamo un po' di musica. Andiamo a bussare ad altri. Ok, rientriamo quindi e continuiamo avanti con il nostro programma radiofonico. Questa è Radio Plaza, quindi erano le voci della piazza e vabbè, c'è un po' di confusione sul primo maggio evidentemente, vabbè, comunque non fa niente, non è un problema. Io non sono d'accordo che il primo maggio lo festeggia chi non lavora e non sono d'accordo neanche che è la festa del lavoro. È la festa dei lavoratori, quindi tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici, quel giorno fanno feste, quindi e tutti quelli che stanno insieme ai lavoratori e alle lavoratrici e fanno festa pure loro, quindi è un giorno di festa, è un giorno di lotta, è un giorno di ricordi ed è un giorno di battaglie, di resistenze e ribellioni. E ora facciamo una breve pausa. Breve pausa musicale? Breve, non tanto. No, due brani, li presento io in attesa che Anna rientri in studio in diretta. Allora, su Radio Plaza tra poco ascolterete Syd Barrett con Effervescing Elephant dall'album Barrett del 1970, e subito dopo i Rolling Stones con il brano Short and Carless dall'album It's Only Rock and Roll del 1974. Radio Plaza. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah, and the message was spread to zebra, mongoose and the dirt. The hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said to me, you know, I wouldn't hurt not one of you, I much prefer something to chew and you're all too scant. Oh yeah, he ain't the elephant. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Ricordiamolo ancora, oggi 13 aprile 2025, Radio Plaza in piazza Municipio a Marigliano, con il collettivo Utopia per la raccolta fondi, per raccolta fondi popolare per l'organizzazione della prossima edizione di primo maggio Occhio all'Ingranaggio 2025, live qui in piazza stamattina e in diretta su collettivoutopia.noblogs.org. Lì al banchetto, oltre a dei dolci buonissimi, c'è la possibilità di aiutare, di provare a sostenere l'organizzazione e la realizzazione di primo maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. Sì, e per tutti quelli che volessero partecipare, che però non sono qua in piazza adesso, non ci possono essere nei prossimi appuntamenti in piazza e neanche nella serata di autofinanziamento dove ci sarà lo spettacolo di Dago Lorai, lo ricordiamo, quindi ulteriore data. E però 23 aprile, ricordiamo la data, 23 sì. aprile, Upside a Somma Vesuviana, spettacolo di Dago Lorai, sì. insomma per sostenere primo maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. Allora, quindi diciamo, per quelli che non possono partecipare direttamente, si può scrivere un'email e prendere un appuntamento, diciamo così, ad personam, su l'indirizzo collettivoutopia@bruttocarattere.org. È proprio il nostro indirizzo mail, è proprio bruttocarattere.org. E poi, se qualche volontario volesse intercedere presso, diciamo, lo Stato, nel palazzo alle nostre spalle, per facilitare, diciamo, il circolo delle carte che deve portare poi all'autorizzazione e quindi all'ufficializzazione di questa data, primo maggio 2025, giornata intera dedicata non solo al lavoro, alla critica del lavoro. Noi siamo abbastanza critici, dentro fino alle ossa, ma manteniamo almeno uno sguardo critico. Sì, infatti il lavoro comunque ha occupato gran parte della nostra vita e quasi ci identifica. Qualcuno infatti se lo è chiesto, dice: quando ti incontrano e non ti conoscono, la prima cosa che ti chiedono è cosa fai, perché è il lavoro che ti identifica. Vabbè, lasciamo stare la schiavitù e lo schiavismo, sicuramente certificato nei luoghi di lavoro, nei contratti di lavoro e anche nelle politiche sul lavoro. Andiamo avanti, quindi. Che devo fare? Devo presentare? Puoi fare un granché, perché siamo arrivati già alla chiusura di questa puntata, o meglio, non è proprio una chiusura definitiva, perché torneremo con varie incursioni ancora, ma siamo un attimo, io mi chiedevo, devo presentare il primo maggio? No, non devi presentare quel giorno durante il concerto. Devi, signore e signori, adesso sul palco. Questa puntata di oggi è solo la prima, torneremo il 27 aprile di nuovo in piazza con il collettivo Utopia, con Radio Plaza, per raccontarvi chi e cosa ci sarà in maniera definitiva in base alla scaletta del primo maggio 2025, primo maggio Occhio all'Ingranaggio. Vi daremo tutte le informazioni, dove, cosa, come, quando. Perché no? Perché non ve lo diciamo? Ma che vuol dici, ma fa? Insomma, che perché dovremmo dirvi perché primo maggio? Sì, infatti, questo lo faremo nelle prossime puntate. In questa puntata, per chi se la fosse persa, si dice così in italiano. Questo sconosciuto. Per chi se la in italiano, questo sconosciuto. Chi l'avesse perso. Per chi si fosse. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, sì. Allora, per il sesso di Radio Plaza, che è bello sempre, no? Per il sesso di Radio Plaza potrete andare sul collettivoutopia.noblogs.org e lì ci sono tutte le registrazioni delle puntate, di questa puntata dove abbiamo raccontato quello che è successo nell'edizione 2024 dell'anno scorso di Occhio all'Ingranaggio. Quindi andiamo verso la chiusura, salutiamo tutte le persone che hanno già contribuito, tutte quelle che stanno per contribuire e quelle che lo faranno alla raccolta fondi popolare per l'organizzazione e la realizzazione di primo maggio Occhio all'Ingranaggio 2025. Sì, facciamo un altro annuncio. Questa è Radio Plaza. Che vogliamo annunciare? Venite gente, venite al banchetto del collettivo Utopia e lasciateci qualche banconota, possibilmente, diciamo, bella larga. vi lasciamo con questo l'ultimo blocco musicale. Avremo 3-4 più o meno, insomma, un po' di musica in fila. Noi però torneremo con i nostri inserti live. Io vi voglio raccontare però cosa andremo ad ascoltare. Ma quando ti arrabbi sei ancora più no, bella. Questa no, questa non l'ascoltiamo. Ascoltiamo Mamma Ma di La Niña, dall'album Foresta del 2025. Sì. E poi ascolteremo The Panther di Manu Dibango, dall'album Africa del Africa Delic del 1972. E poi ascolteremo A Cercasi di Carmen Consoli, estratto dall'album Raccolta Per Niente Stanca del 2010. E poi finiremo la puntata con In fondo alla boccia dei Litfiba. E finisce dall'album finisce benissimo dall'album Mondi Sommersi del 1997. Ma abbiamo non finito. Via, questa, noi no, torniamo, no, non chiudete, non cambiate canale, non cambiate finita. Piazza, non cambiate primo maggio a Marigliano. Radio Plaza per la raccolta fondi primo maggio 2025, raccolta fondi popolare in piazza qui a Marigliano adesso e nelle prossime settimane. Per info e altre avventure scrivere a collettivoutopia.chiocciola senza punto, rifacciamola. Per altre info e altre avventure scrivere a collettivoutopia@bruttocarattere.org oppure visitare il sito collettivoutopia.noblogs.org. We'll be right back. 25. Stiamo preparandola, questa è la festa, stiamo preparando la festa per la festa, la riflessione, la critica, i pensieri per primo maggio occhio all'ingranaggio 2025. Quindi stamattina siamo in piazza con la raccolta fondi popolare. Siamo stamattina, torneremo il 27 di aprile, il 23 maggio ci sarà uno spettacolo a Somma Vesuviana all'Upside, tutto in promozione e preparazione del primo maggio occhio all'ingranaggio 2025. Festa, e quindi festa si urla, festa. E per chi volesse partecipare a questa festa, indirizzo mail collettivoutopia@bruttocarattere.org, e per sapere che cosa succede, che cosa succederà, collettivoutopia.noblogs.org. Collettivoutopia Radio Plaza. Fornita, intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista, offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine in libata, cercasi, donna usata, già rodata, cercasi, donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balli a suon di samba o cia cia cia. Al colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario fascinante, un'opportunità di vita più agiata. Donna impenitente e ladra, cercasi, donna santa incensurata, cercasi, deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Come paceresti se dovessi fare cinema, scena prima, ciak motore, azione poi si gira, o forse di alla politica, ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica, al giorno d'oggi tra i due sessi non v'è differenza, il bel paese premia chi più merita. Non c'è musica? Questo è un gioco, facciamo un gioco un attimo. Dire un attimo così, vediamo se fa l'effetto che mi piace a me. Gente, sta arrivando il primo maggio! In programma musica, arte, libri, cibo buono, banchetti e momenti da ricordare. Gente, sta arrivando il primo maggio e la raccolta fondi. Aggiustiamo l'umore, ripariamo le giornate storte. Abbiamo i pezzi di ricambio per una vita sprecata nel lavoro. Gente, sosteniamo il primo maggio. Gente, partecipiamo alla raccolta fondi. Gente, al banchetto. Gente, al banchetto del collettivo Utopia. E per chi chiunque non ci fosse adesso in piazza, e allora scrivete su collettivoutopia@bruttocarattere.org oppure visitate il sito collettivoutopia.noblogs.org. Gente, vi aspettiamo ancora. Allora, oggi è finita qui, oggi finisce qui, ma vi aspettiamo domenica 27 aprile e vi aspettiamo il 23 aprile a Somma Vesuviana all'Ipsad. Gente, questo è il primo maggio. Ah, a proposito, al primo maggio ci sarà anche del vino. Ma del vino è un cognome? Del vino buono, del vino buono. E così è finita. Vabbè, è finita qua. Grazie a tutte e buon ascolto. C'è l'ultimo brano, non ve lo perdete, perché brano bello, bello, bello, bello, bello. Grazie a chi ha fatto questa puntata, grazie a chi l'ha ascoltata, grazie a chi sostiene e sosterrà primo maggio, occhio all'ingranaggio 2025. Yeah! Guardati quanto sei, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao, priao vita, succederà mai quel che vorrei. Che onda!